A bordo campo di Dario Ricci. Monte Urano è un piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Dista da Milano 480 km e da Madrid 2000 km. Insomma, se volete sapere come si troverà Kakà nel Real Madrid o che fine farà Ibrahimovic, beh, cambiate subito canale perché la puntata di A Bordo Campo di oggi non fa per voi. Oggi raccontiamo una storia di calcio e di passione che si svolge tra Monte Urano, Norcia, Spoleto, squadre come la Monturanese, il Taranto, l'Elpidiense, il Camerino, l'Urbino, la Civitanovese. Perché Flavio Falsetti, classe 1972, centrocampista di grinta e quantità, in questi anni e in queste squadre ha giocato come centrocampista, appunto. Flavio, giocatore tutto grinta, cuore e coraggio, un Gattuso dei dilettanti, direi. Beh sì, non mi potevi fare complimenti migliori, insomma. Ero sì un giocatore di grande temperamento, mi ho iniziato da bambino come attaccante e poi dopo, avendo stazza, magari fisico, piano piano mi hanno messo prima mediano, poi difensore centrale. Diciamo che ero un po' un giocatore polivalente, potevo giocare in ambedue ruoli. Leggendo un po' la tua biografia, di cui fra poco parliamo, ci sono alcune partite epiche, no? Come quella volta che fermaste addirittura col tuo Norcia il Perugia, che già allora giocava in Serie A, e quel Falsetti un bel po' d'applausi li strappò alle tribune. Beh sì, perché comunque con il mio atteggiamento io ero uno che poi alla fine non volevo perdere neanche la partita del Barre, quindi per me qualsiasi partita era una competizione. Io il campo lo vedevo proprio come un'arena, no? Entravo dentro e lì non conoscevo amici, sempre stando alle regole che sono quelle della realtà. Quando facevo l'amichevole, che sia col Perugia, che sia con la Ternana, che sia con Real Madrid, io davo sempre il 100%. I tifosi sanno riconoscere il giocatore che mette cuore, al di là delle capacità tecniche, no? A volte si può sbagliare, ma poi è l'atteggiamento che fa la differenza. Io a Monturano diciamo che avevo trovato il mio ambiente ideale, anche se poi fondamentalmente ho fatto un bene in quasi tutte le squadre. Senti, centrocampista di cuore, grinta e quantità, Falsetti anche dai piedi buoni, instancabile in allenamento, fino a quella stagione 1999-2000, anche l'infaticabile Falsetti in allenamento comincia a perdere colpi. Molti si insospettiscono, ma perché? Che sarà? Che succede, Flavio? Ti chiedono. Che cosa stava accadendo nel tuo corpo? Ma guarda, in realtà la malattia si è manifestata nel 98-99, ma io già 2 anni prima a Gubbio avevo avuto già delle piccole avvisaglie. Purtroppo un po' per il mio carattere, no? Che comunque io non volevo mollare mai, quindi a volte mi nascondevo anche i problemi, no? Pensavo di essere un po' indistruttibile da quel punto di vista. Vuoi anche per visite mediche un po' approssimative, un problema grosso del calcio dilettantistico. Sono state una serie di coincidenze che purtroppo mi hanno portato a scoprire questa malattia con 2 anni di ritardo, con tutte le problematiche che poi mi sono portato e mi porto ancora da 11 anni. Purtroppo è così, oggi nei dilettanti soltanto il 30% fanno le visite mediche, si riducono solo a una spirometria e un elettrocardiogramma, quando invece una volta all'anno fare un'analisi del sangue di routine significherebbe prevenire e scoprire gli stadi iniziali di una materia di malattie importanti. La diagnosi dopo quei primi esami è stata terribile, ha dato inizio a una partita che ancora oggi dopo 11 anni continua e che sta cercando in tutti i modi di vincere, Flavio. Qual è stata la diagnosi a quei controlli? Ma io ho avuto una diagnosi di linfoma di 4 stadi, quindi una malattia molto avanzata che aveva comunque colpito non solo le ghiandole linfatiche ma anche il fegato, la milza, avevo delle lesioni a livello ostolitico, a livello osseo, una malattia molto diffusa, però comunque c'erano delle probabilità di guarigione e ho fatto le prime 6 cicli di chemioterapia classica, ma purtroppo la malattia non si è fermata, anzi c'è stata una riespansione di malattia in sedi diverse e la situazione si era fatta molto molto grave, insomma. Io sono Flavio Falsetti, scrivi nel tuo libro, e sono tornato a giocare a calcio dopo 35 cicli di chemioterapia. Anche se la mia Champions League, il mio Tourmalet, la mia ACA è stato solo un campionato interregionale. Ma sono convinto oggi più che mai, continui, che senza la bestia sarei andato lontano. E la bestia è il modo in cui chiami la malattia. Flavio, direi che in tutta questa storia incredibile, tragica, ma ricca anche di speranza, c'è una costante, un filo rosso, questo amore indistruttibile, quello sì, per il calcio, per il pallone, per il Prato Verde, per il pubblico di Monturano, Saltelpidio, Spoleto, Norcia, per tutti quei tifosi che ti hanno visto marcare gli avversari o calciare un rigore. Beh, sai, purtroppo l'amore verso il calcio è stato un'arma a doppio taglio, perché prima no, mi ha fatto scappare dalla malattia, e poi comunque il campo, il profumo del campo, gli allenamenti, i compagni di squadra, e poi questo pormi sempre degli obiettivi, no? Ogni volta che avevo una ricaduta è stata la mia salvezza. Oggi ancora non sono completamente guarito, nonostante tutto io ho fatto l'atleta fino a un anno fa a livello agonistico, e ho in mente che, finito questi altri 8 cicli di chemioterapia, a ottobre torno di nuovo in campo per dare un segnale forte, perché il cancro non deve essere vista come una cosa mortale. Io vedo tanti che la parola cancro equivale a morte. Io dico invece che la parola cancro equivale vita, e poi tornare più forte di prima. Questo è il messaggio che io voglio dare a tutte le persone che stanno male. Un messaggio che passa anche attraverso le pagine del libro che hai scritto con e a cura di Francesco Caremani. Oltre il 90esimo, la storia di Flavio Falsetti, tornato al calcio dopo 35 cicli di chemioterapia, edito dalla Bradipo Libri. Abbiamo in collegamento anche Francesco Caremani. Beh, Francesco, direi che sia dalle pagine che da quanto ci diceva Flavio trasuda questo amore per il calcio, che è quello poi che concretamente toccate ogni qualvolta incontrate giovani calciatori, studenti, per raccontare la storia di Flavio e per raccontare questo libro, no? Assolutamente. Il calcio per Flavio, io lo dico sempre, è la stella polare che l'ha guidato fuori dal tunnel. Questo amore, questa passione, la voglia continua di tornare a giocare. E non solo dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista fisico, perché se voleva tornare a giocare doveva in qualche modo prepararsi. Questo significava allenarsi, prima da solo, perché c'erano i postumi chiaramente della malattia, c'erano i postumi della chemioterapia che aggredisce i tendini, e quindi fare le scale del proprio palazzo per ritrovare un tono muscolare, per poter correre, la ciclette nella camera sterile mentre faceva l'autotrapianto. Insomma, credo che siano veramente episodi che hanno fatto la storia della storia di Flavio. Si potrebbe, come dire, usare la metafora del famoso discorso di Al Pacino in ogni maledetta domenica, no? Quando lui arringa la squadra prima di scendere in campo per la finale di Super Bowl e parla di centimetri. Ecco, Flavio si è guadagnato centimetro dopo centimetro, veramente, secondo dopo secondo, il fatto di essere qui e di poter raccontare la sua storia. Alludevi a tanti episodi che racconti anche, che hai raccolto nel libro che abbiamo citato. Ce n'è uno in particolare che ti rimane vivo nella memoria della storia di Flavio? A me ha colpito molto farlo il libro, perché chiaramente ho conosciuto Flavio approfonditamente, ma soprattutto e anche le persone che l'hanno conosciuto, che hanno vissuto con lui. Io sono rimasto veramente colpito dal segno umano profondo che Flavio ha lasciato in tutte le persone che ha conosciuto. Flavio, la tua battaglia sta continuando, come ci ricordavi in precedenza, ma da questa battaglia contro il male, da questo amore per il calcio, è nata anche un'associazione che si propone di cambiare radicalmente la cultura del calcio dilettantistico italiano. Quali sono gli obiettivi di questa associazione? Io ho fondato questa associazione, sono ormai 3 anni, l'ho dedicata a 2 ragazzi che non ce l'hanno fatta e si curavano con me, mi sono sentito in diritto e in dovere di farlo. Tramite questa associazione propongo eventi sportivi, partite di beneficenza, ma soprattutto convegni e sui benefici dello sport, no? E con questa associazione io sto promuovendo un'assicurazione per i giocatori dilettanti, o equiparare i dilettanti ai professionistici da un punto di vista almeno della malattia, anche perché oggi si continua a parlare di dilettantismo, ma gli organi federali dovrebbero vedere o capire o quantomeno non far finta di non vedere che nei dilettanti ci sono una marea di interessi che sono le case farmaceutiche. Quindi c'è un giro economico spaventoso che coinvolge 1.500.000 tesserati, quindi non ci dobbiamo prendere in giro, non è più dilettantismo, fa comodo anche un po' al sistema che questo movimento vada avanti. E allora io mi batto perché ci sia un fondo pensionistico per chi magari ha un problema invalidante come il mio, per chi debba smettere di giocare a pallone. Ma poi non è solo il calcio, io insieme a Vincenzo Maenza, insieme a Valentina Vezzali, insieme anche a sportivi di altre discipline, stiamo portando avanti questo tipo di promozione. So che hai avuto un incontro emozionante e significativo, no? Beh, guarda, io vorrei citare Gattuso. Gattuso mi ha telefonato 2 settimane fa dicendomi che lui, mentre era infortunato, ha letto il mio libro e che nelle parole del libro rispecchiava un po' il suo modo di essere. Beh, questo è stato un grande complimento che potevo ricevere dallo sport italiano. Poi, per quanto riguarda l'altra cosa, sì, ho incontrato Armstrong, ho dato il mio libro, ho dato lettera in inglese dove c'era tutto il mio progetto e spero, mi auguro che ci sia di nuovo un contatto più avanti. Però è chiaro che mi ha fatto molto piacere perché comunque ho incontrato una persona che ha avuto una problematica simile alla mia. Flavio, allora, con Francesco Caremani e con il vostro libro l'appuntamento è in libreria. Ve lo ricordo, il titolo Oltre il 90esimo, la storia di Flavio Falsetti, editrice Bradipo Libri. L'altro appuntamento però è in campo. A ottobre, finito questo ciclo, si torna in campo, Flavio, no? Grande festa con tanti campioni dello sport. Ma guarda, io intanto torno in campo perché voglio prendere ulteriormente in giro questa malattia, no? Perché ho sempre detto che dopo 11 anni sono io che decido di smettere, non decidono né i medici né la malattia. Quindi uno dei motivi per cui torno in campo è proprio per dare ancora un'altra umiliazione alla malattia. E poi con Francesco stiamo organizzando una serie di iniziative a partire proprio da ottobre, dal mio rientro in campo, che saranno sicuramente iniziative sia a scopo benefico, ma soprattutto di fare un'operazione culturale che cambi un pochino il modo di pensare delle persone. A bordo campo. Ben ritrovati a bordo campo, giorni in cui il mondo del calcio guarda la Confederations Cup, guarda al Sudafrica, l'Africa che fa le prove generali in vista del mondiale del prossimo anno. C'è qualcuno che però il proprio mondiale sta per giocarlo proprio da domani, lunedì 22 giugno fino al 27 giugno, e sta per giocarlo proprio qua in Italia. Non parliamo di Italia, Brasile, Inghilterra e di chi si qualificherà appunto per Sudafrica 2010, ma per Provenza, Occitania, Gozo, Kurdistan, Lapponia e Padania. Nazioni rappresentative nazionali, parliamo soprattutto del mondiale per tutte quelle squadre non riconosciute ufficialmente dalla FIFA, giunto ormai alla terza edizione e che quest'anno viene ospitato proprio dall'Italia. E allora, in collegamento con noi, ospite di A Bordo Campo, Leo Siegel, allenatore della rappresentativa padana che scenderà in campo in questo mondiale particolarissimo con l'onore di ospitarlo e l'onere di difendere il titolo conquistato nel 2008. Io non parlo di onere, parlo di onore, ovviamente saluto tutti gli ascoltatori. Tu hai parlato di nazioni, più propriamente noi ci riteniamo partecipi di un mondiale dei popoli, perché noi sappiamo benissimo di essere in una nazione che si chiama Italia, così come la Lapponia è in una nazione che si chiama Svezia, eccetera, eccetera. Gli occitani sono in Francia, i provenzali sono in Francia, Gozo fa parte di Malta. Però noi parliamo di popoli, quindi in questo pensiamo di essere nel giusto. Come nasce questa iniziativa giunta appunto alla terza edizione, il Viva World Cup NF Board? Esiste di fatto un tavolo, un'associazione internazionale che riunisce i rappresentanti di queste rappresentative appunto che non vengono ufficialmente riconosciute dalla FIFA. Sì, diciamo che sono una trentina, diciamo, di popoli affiliati in tutti i continenti, è un'iniziativa che viene dalla Francia, nel Belgio più esattamente, potremmo definirla una succursale della FIFA e della UEFA, nel senso che potrebbe essere, diciamo, un cantiere per rappresentative che magari in un domani assurgeranno al ruolo di nazione. Non parlo ovviamente della Padania, parlo in astratto, in senso generale. Beh, Leo, direi che Provenza, Occitania, Gozo, Kurdistan e Lapponia, visti i nomi, anche quest'anno siete i favoriti d'obbligo. Favorito no, perché secondo me favorita è la Lapponia, che non sarà la Lapponia di un anno fa. E in Lapponia ci sono tutti i giocatori professionisti nei campionati prima e seconda divisione di Danimarca, Svezia e Norvegia. Quindi l'anno scorso si giocò in luglio e questi erano già in attività. Sapete bene che al nord i campionati, l'attività inizia prima, poi hanno una lunga pausa invernale. Quest'anno, giocando in giugno, questi non sono ancora in ritiro con le loro squadre di club e quindi sono disponibili. Quindi sicuramente sarà molto, ma molto più difficile. Tra l'altro, profondi cambiamenti anche nella rappresentativa padana, perché l'anno scorso schieravate campioni dal curriculum invidiabile, quest'anno si è scelta una filosofia che ha portato alla costruzione di una squadra più operaia, diciamo così. Sì, è esattamente così, un po' per necessità e un po' per virtù. Diciamo che rispetto all'anno scorso non ho più i due fratelli Cossato. Cossato l'anno scorso giocava ancora nel Chievo, ha vinto il campionato di Serie B col Chievo. Abbiamo quindi qualche giocatore che ha preso le scarpe al chiodo, qualcun altro invece c'è ancora Ganz, c'è, così come c'è qualcun altro che va per la maggiore. È un mix tra giovani di belle speranze e qualche reduce dalle platee della Serie A. Il calcio in questo caso è anche il pretesto, ammettiamolo, per un confronto che va anche al di là di quello che sarà il risultato del campo. So che ci sono iniziative all'atere appunto per favorire questi interscambi, vero? Ma innanzitutto, contrariamente a quello che accade in altre competizioni, noi alloggeremo tutte e sei le rappresentative a Cardano al Campo, che è a due passi dalla Malpensa, tutti insieme. Perché? Perché noi crediamo che se si parla di fratellanza, questa fratellanza, questo scambio di conoscenze, questo vivere insieme non debba circoscriversi ai 90 minuti di una partita. E credo che la parte più interessante sia quella magari di pranzare insieme, di cenare insieme, di passare delle ore insieme e magari in qualche modo riuscire anche a farsi capire, perché poi le lingue non è che sono tutte così facili. Sottolineiamo però anche quelli che sono gli aspetti più controversi di questa iniziativa. In molti evidenziano quelle che sono un po' le radici politico-secessioniste, no? di rappresentative calcistiche di questo tipo. Ricordo ad esempio un anno fa l'amichevole che proprio la rappresentativa padana giocò all'Arena di Milano con una rappresentativa del Tibet. Beh, gli slogan, per quanto si volesse solidarizzare con il Tibet alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino, erano del tipo Pechino come Roma. Adesso questa non me la ricordo e ti credo ciecamente sulla parola, non me la ricordo onestamente, ma il fatto che io non l'abbia sentita dalla panchina non significa nulla. Devo dirti che secondo me si va al di là della secessione. Ti cito due esempi. Esiste la nazionale di calcio della Catalogna, che è, diciamo, è basata soprattutto sull'Espagnol di Barcellona e sul Barcellona stesso. Beh, questi hanno giocato qualche mese addietro, alla pausa invernale, contro il Brasile al Nou Camp di Barcellona, 80.000 spettatori. L'anno precedente si sono incontrati la nazionale della Catalunya e dei Paesi Baschi a San Mamés di Bilbao, stadio esaurito in prevendita, 40.000 persone pigiate. Eppure sia i Paesi Baschi sia la Catalunya, seppure con le loro peculiarità, le loro origini, le loro lingue, fanno parte di una nazione importante che si chiama Spagna e che è oltretutto amministrata da un uomo progressista come Zapatero. Quindi, insomma, secondo te il calcio da che parte sta in questo equilibrio così difficile tra uno Stato centralizzato, sovranazionale e realtà culturali che si vogliono in qualche modo sottolineare per aree geografiche, per comunanze etniche? È un equilibrio, guarda, un po' complesso, no? Ma tu sai che si parla di campanilismo. Cosa significa campanilismo? Significa che una volta la squadra del cuore era la squadra del campanile, che era fatta soprattutto di residenti. Oggi il campo del calcio è globale, allora no. Ma io ti porto un esempio. La Svizzera ha cantoni che parlano quattro lingue diverse, tedesco, francese, italiano e romancio. Bene, questo è uno Stato federale per eccellenza, ognuno parla la sua lingua, quindi ha i suoi costumi, le sue abitudini e quindi si sente padrone in casa sua, si sente completamente, diciamo, proprietario della sua fisionomia, delle sue peculiarità. Se c'è un paese che quando gioca la nazionale, cioè la nazionale svizzera, è accomunato nel tifo, ti parlo del calcio ma anche dell'hockey ghiaccio, che è il primo sport svizzero, Maurizio, che ben conosco per professione mia, devo dirti che è una dimostrazione che uno può anche essere diversificato dal punto di vista culturale, linguistico, etnico e poi essere compatto attorno alla bandiera che nella fattispecie è quella bianco-crociata. Insomma, prima della partita, va pensiero o inno di Mameli? Ma noi suoniamo il va pensiero, che però è bello, ovviamente ce ne siamo appropriati, non è un nostro inno, l'abbiamo usato così come può capitare, ma questo non va visto in chiave anti-italiana, semplicemente che lo riteniamo, cioè il va pensiero o mia patria si bella e perduta, canta, e quindi si parla di patria, e la patria secondo me non è dove uno è nato, è dove uno lavora, dove uno vive, dove abita, dove produce, per cui per me è padano tra virgolette anche un immigrato che si integra con noi, ed è straniero magari uno nato da queste parti che non ha capito che cosa siamo, cosa dovrebbe essere lui stesso, quindi secondo me il concetto è molto più arioso di quello che si può pensare. Quando nacque la Padania, secondo anno, noi giocammo in Val d'Aosta contro una rappresentativa valdostana e ci fu un ragazzo di colore, ma proprio colore, che ci chiese di poter giocare con noi, ci sono le foto che documentano, io lo feci giocare, non mi ricordo il cognome, ma interessava anche in quel momento fosse un ragazzo che studiava in Val d'Aosta e aveva simpatia per noi, e questo era più che sufficiente. Io non ho mai chiesto ai miei giocatori per chi votano, mai, è una cosa che va al di là del partito. Mondiale alle porte, scontato l'in bocca al lupo, e poi che futuro c'è per questo tipo di realtà, per questo tipo di calcio secondo te? Il futuro, che il prossimo anno si gioca a Gozo, perché i maltesi hanno già ottenuto l'assegnazione del Mondiale 2010 e nel 2011 si giocherà in Kurdistan. Tutti quelli che vogliono venire in libertà, nel nome della fratellanza dello sport, che devi unire e non devi dividere, beh, penso che saranno tutti benvenuti. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci sul sito www.radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.